cenno d'intesa con i suoi collaboratori, si comincia. Tutti convocati di Carlo Genta. Sei pronto, Giovanni Capuano? Ma guarda, purtroppo ero al mare e me l'ero persa. Sentito un po' Star Wars, un po' ma non, colonna sonora. Poi magari da la risentiamo, ma a me non è che trasmetta poi tutta questa emozione. Quella che ad esempio la famosa musichetta della Champions League invece trasmette a tonnellate. Altra cosa. Vabbè, comunque ci siamo. Non poteva mancare Giovanni Capuano, naturalmente. Da domenica ripartiamo anche con lui al volante per tutti i convocati weekend dalle 17 alle 19. Vivremo insieme un tempo di Juventus Udinese. Avremo già visto le romane che domani alzano il sipario, e poi per le prime due di campionato si gioca la sera. Tra l'altro, proiettandoci invece la settimana dopo, vivremo già Roma Juventus che giocano alle 18. Guarda, io ho questa impressione che ovviamente le prime due giornate di campionato sono tutt'altro che decisive. Però visto che questa è una griglia di partenza in cui la Juventus resta in pole, ma ha qualche incognita in più rispetto al passato, ad esempio io credo che la sera del 30 agosto noi qualche idea un po' più chiara sui bianconeri l'avremo. Anche se saremo ancora mercato aperto, mercato che chiude lunedì 31 alle 23. Sì, io penso che quello che sarà fatto venerdì prossimo sarà fatto, cioè non mi aspetto che nelle ultime ore, negli ultimi minuti, complice in mezzo il weekend in cui si gioca in Italia, ma non solo in Italia perché si gioca ovunque, possa esserci qualche clamoroso ribaltone. Cioè, ad esempio, se Ibrahimovic deve farsi venire il mal di pancia, ce lo fa venire sta settimana, ecco, tra lunedì e venerdì, poi magari si può anche farlo arrivare in aereo il 31, però ragazzo mio, no, se hai mal di pancia comincia a palesarti. Questo è l'unico movimento di cui si parla che potrebbe davvero cambiare le carte del campionato, di cui parleremo oggi. Ovviamente le carte al campionato 800 24 00 24, e via coi pronostici, ma anche il fantacalcio, di cui Giovanni Capuano è uno dei massimi esperti viventi, quindi potete chiedere a lui consigli per gli acquisti. Come no, siamo qua. Che portiere hai preso? No, io purtroppo le rose bloccate, portiere non sono messo benissimo, ho il portiere dell'Udinese Carnezis, poi avevo scommesso su Cuffè che adesso mi è andato a Como e quindi dovrò correre ai ripari, ma mi torna Pepe Reina andato via, non l'avevo tagliato, quindi che non è però male. Il bello del fantacalcio, ci sono mille modi di giocarci, io gioco così con gli amici dal 1990. C'è chi lo fa in maniera diversa e quindi c'è modo per divertirsi. Però qualche consiglio l'abbiamo, eh? Sì, eh? Sì. Chi sarà tra i nuovi, secondo te, tra i volti nuovi del nostro campionato, la rivelazione? Quale giocatore prenderesti? Ma per il fantacalcio tu dici? Sì, ma sì, guarda, perché il fantacalcio ha delle regole tutte sue. No, eh, lo sappiamo. Ma io devo dire che probabilmente il segreto sono i centrocampisti e i difensori. Il segreto sono i centrocampisti, però siccome sono arrivati dei buoni attaccanti, io credo che invece di svenarmi per Dzeko, probabilmente spenderei tanto, ma qualcosina meno per Mandžukić. Ho come l'idea che se c'è un attaccante che arriva a 20, è Mandžukić, sì. La prima fila è quella disegnata dalla scorsa classifica. Juventus, Roma. Stavamo dicendo prima che la Roma con il Napoli è l'unica ad aver aggiunto senza aver perso niente. Guarda, il paradosso è che noi siamo arrivati a 8-9 giorni dalla fine del mercato e in realtà ci sono tanti progetti interessanti ma incompleti, perché tu prima parlavi del Milan e di Ibrahimovic dicendo Ibra è forse l'unica operazione che può spostare qualcosa, può spostare gli equilibri, però ad esempio a me viene in mente l'Inter. Anche l'Inter oggi è un progetto che ha speso tantissimo ma è incompleta, cioè se non arriva l'esterno e non arriva l'attaccante che serve davvero, o non arriva anche l'esterno basso, perché la verità è che ad oggi Mancini non ha avuto risposte dai tanti esterni che ha provato e che in parte vuole vendere. Beh, se non arrivano questi uomini, anche l'Inter è un progetto incompleto, lo è in parte la Roma se non arriva il laterale sinistro, c'è questo problema con il Paris Saint Germain per Digne, cioè hanno speso tutti tantissimo, però in realtà a parte il Napoli, che mi sembra quella più vicina al Napoli che sarà per questa stagione, mi sembra che tutti abbiano assoluto bisogno, disperato bisogno di concludere. Direttore del Corriere dello Sport Alessandro Vocalelli, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno, ben trovati a tutti. Ben trovato a te, grazie. Aiutaci a fare le carte al campionato. Stavamo dicendo prima fila Juventus e Roma. Quanto si è avvicinata la Roma? Abbastanza, molto. Io credo si è avvicinata, perché sentivo che dicevi una cosa, secondo me, che è la fotografia, nel senso che la Roma ha aggiunto senza togliere niente, nel senso che ha finanziato la sua campagna acquisti con due giocatori che l'anno scorso non aveva, cioè che Bertolacci giocava nel Genoa e sì. Romagnoli giocava nella Sampdoria, sì. Per cui erano comunque due giocatori che non erano nella rosa dello scorso anno. E adesso invece ci ha messo dentro Dzeko, Salah, insomma si è abbastanza avvicinata. La Juventus resta la favorita, ma io credo che le distanze si siano molto molto accorciate. Sì, dietro si mescolano un po' le carte invece, dietro questa prima fila, perché sale Milano, però giustamente Giovanni Capuano diceva c'è un grande senso di incertezza, di precarietà su quelle che saranno le facce definitive e vere di tutte le altre squadre, ma anche della Juventus stessa, che sta cercando trequartista e poi oggi si legge di Cuadrado. Questa è un'altra cosa strana di cui parleremo. Dietro sì. Comunque Juventus e Roma, difficile stabilire delle gerarchie precise. Sì, è difficile anche perché mancano questi 9 giorni alla fine del mercato. Faccio un esempio, è chiaro che se arriva Ibrahimovic è un conto, se non arriva Ibrahimovic è un altro. Ibra è uno, secondo me, tra i 3 giocatori più forti del mondo, insieme a Cristiano Ronaldo e Messi, che è quello che si sposta veramente gli equilibri. Io fra tutte quelle, al momento, facendo la fotografia oggi, penso che la squadra di cui parlano pochi, tutti, ma che secondo me è una squadra molto molto quadrata, è il Napoli, perché ha abbandonato questo suo cliché internazionale da Benitez ai giocatori del Real Madrid e delle altre squadre titolate d'Europa, è andato a prendere in provincia sia l'allenatore che alcuni giocatori come Valdifiori, come i difensori che ha preso, eccetera eccetera, però mi sembra abbia fatto una squadra giusta e io credo che alla fine l'equilibrio paghi sempre, per cui se devo dire una terza incomodo alle due di testa dico il Napoli. Sei d'accordo Giovanni? Sì, assolutamente. Poi a me incuriosisce vedere quale sarà la fase difensiva del Napoli, perché noi per 2 anni abbiamo dato la colpa a livello qualitativo dei centrali difensivi, per carità, probabilmente non erano Nesta e Thiago Napoli Silva. Era una squadra spezzata in due. Però è anche vero che molto ci aveva messo Benitez sul fatto che il Napoli prendesse oltre 50 gol a stagione. Oggi io credo che soltanto il fatto di avere un regista davanti a preso all'Anna, andatevi a vedere le statistiche, è il rubapalloni per eccellenza della Serie A nelle ultime stagioni. Io credo che già quello, al netto che poi è arrivato Chiriches, migliori la fase difensiva del Napoli. Mi sembra un progetto molto pragmatico, sì, quello di Sarri. Sì. Io parlavo con qualcuno del Napoli, diciamo di quelli che decidono e che comandano, quindi influente, e mi diceva che loro stanno cercando appunto difensori esplosivi, perché comunque Sarri gioca con questa linea molto alta, per cui hanno bisogno di giocatori che siano atleticamente molto forti, molto brillanti, per cui si spiegano alcune decisioni. Per dire, il terzino dell'Empoli, di cui si parla poco, può sembrare magari una scommessa, invece rientra proprio in questi canoni del giocatore fortissimo nei recuperi, per cui secondo me, ripeto, il Napoli ha le idee molto chiare, e secondo me quando hai le idee chiare sei già un buon pezzo avanti. Resta Higuain l'attaccante più forte del campionato? Assolutamente sì, io penso che di quest'estate sono arrivati tanti centravanti e si è abbandonata un po' la moda del falso 9, no? Adesso non ne parlano più, sono tutti tornati al falso, al 9 verissimo, quello proprio classico, per cui sono arrivati da Dzeko, a Bacca, a Luis Adriano, e Mandžukić, insomma proprio i centravanti di una volta. Però tra tutti questi Higuaín è quello che ha, secondo me, più qualità e più senso della squadra, è fortissimo sia dal punto di vista di realizzativo che dal punto di vista di costruzione per i compagni, per cui nel podio è ancora il primo posto, mette Higuaín. Ha ragione il direttore, sì, Giovanni, perché questa è una delle chiavi di lettura del campionato, cioè il ritorno, ma l'abbiamo detto, letto, sentito in tutti questi giorni. Una delle chiavi del campionato è il ritorno del centravanti. Sì, tra l'altro centravanti, grandissimi centravanti, che sono spalmati su tutte le big, chiamiamole, le sei, le sette sorelle, tranne la Fiorentina, che lì per il momento scommette su un ragazzo che è Babacar, poi vedremo Pepito Rossi, e se vogliamo anche la Lazio, poi capiremo cosa succede da qui al 31 agosto, dopo il preliminare, a seconda di come va. Però effettivamente tutte si sono dotate di questo centravanti, anche quelle che storicamente, ad esempio io oggi ho sentito, poi magari dopo ne parleremo, ho sentito Garcia parlare di Dzeko e Totti, sì. E mi incuriosisce perché la Roma non ce l'ha mai avuto, no. Il centravanti in questi anni, no, oppure direttore? Quelli che ha avuto li ha bruciati, sì, è verissimo, però riflettevo anche su questo, cioè forse uno dei pochi centravanti con cui può giocare Totti, e secondo me Totti paradossalmente c'ha ancora più possibilità di giocare nella Roma, perché e fosse arrivato un centravanti da area di rigore, di quelli che comunque collaborano poco alla fase di ripiegamento difensiva, e probabilmente Totti non è più uno che fa 50 metri di campo, per cui ci sarebbe stato il pericolo di avere due giocatori davanti, diciamo, un po' statici. Dzeko invece è proprio il centravanti che può permettere a Totti di giocare, perché lui fa anche molto del lavoro sporco, rientra, fa da sponda, da un aiuto, addirittura va a marcare lui il difensore avversario, insomma, ecco, da questo punto di vista secondo me Totti ha il possibile potenziale partner ideale. Ma tu ci credi all'idea che Totti si rassegna a fare 20-25 partite, cioè a ritagliarsi un ruolo diverso nella Roma? E poi ce ne ho un'altra un po' più cattivella, cioè oggi Garcia, gli chiedono di Dzeko, di fatto fa un giro di parole per non dire che Dzeko è il titolare e Totti la riserva, tema che a Roma è sempre delicatissimo. No, ma io guarda, conosco abbastanza bene Totti, e l'anno scorso quando a un certo punto giocava sempre, non voglio dire che era infastidito perché da lui non si fastidisce mai a giocare, però era anche un po' affaticato, nel senso che l'anno scorso ha dovuto fare degli straordinari che lui stesso non aveva preventivato, si evita volentieri, per cui se a Totti gli dai 20 partite di quelle serie importanti, secondo me lui va benissimo, per cui no, io non credo che Totti sia un problema da questo punto di vista. E d'altronde, voglio dire, Garcia in queste prime uscite ha fatto delle scelte abbastanza chiare, cioè Totti è andato in panchina, Dzeko è andato in campo, ma se la Roma vuole andare avanti e fa una stagione non come quella dell'anno scorso che finisce a gennaio ma che prosegue fino a maggio, secondo me il problema di dove mettere Totti non ci sarà, perché ci sarà spazio per tutti. Sì, dai. Sì. Direttore, ti chiedo un attimo di pazienza, abbiamo il traffico, ti rubo poi altri 5 minuti. Sì. Allora, traffico, poi torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Giovanni Capuano qui con me, Alessandro Vocarelli, direttore del Corriere dello Sport, nostro ospite al telefono. Direttore, genovesi, dietro quelle di cui abbiamo parlato, le genovesi, la Fiorentina, il Torino, chi ti piace di più? Il Torino mi piace molto, io sono un fan scatenato di Ventura, sì, e tra l'altro dovrebbe farsi dare, come la diciamo l'altra volta, una percentuale sulle cessioni dei giocatori, perché veramente è un moltiplicatore di soldi. Diventa più grande investimento avere uno come Ventura, per cui sono convinto che anche quest'anno farà bene. E tra tutte queste, guarda, io ti dico, a me piace il Bologna, penso un po' sai che secondo me il Bologna ha fatto ipotetica parte destra della classifica, ha fatto il colpo più grande, cioè Mattia Destro. Per il campionato che deve fare il Bologna, prendere Destro è uno che si può spostare a suo modo gli equilibri delle gerarchie. Poi ha preso dei giocatori giovani bravi, Vitezic, Rizzo, a uno dei all'arco, primi cinque portieri italiani, che secondo me è mirante, anche di lui se ne parla poco, però a me il Bologna non mi piace, ecco, per cui ci metto il Bologna. Certo, il segreto di Pulcinella per salvarsi, Giovanni, portiere che para, sì, attaccante prendere quello che fa i gol. Anzi, io devo dirti che in questo mercato, dove sono andati via giocatori a cifre altissime, i quasi 10 milioni per Destro mi sono sembrati offensivi. Sì, cioè io credo d'accordo. Destro ha 24 anni, ha fatto 40 passagol in Serie A e non so quanti attaccanti italiani alla sua età erano già stati comunque così prolifici, pur giocando in maniera discontinua, ha perso quasi un anno per infortunio, non è mai stato titolare vero nella Roma, anche per i problemi di cui parlavamo, poi ha perso 5 mesi in un Milan che non era costruito, quindi pur con questo tipo di cammino è uno degli attaccanti, è la sua età migliori. Io credo sia stato un po' sottovalutato, credo che fra Destro, Pazzini, Pepito Rossi, poi vedremo se come rientra, poi se vuoi ne mettiamo anche qualcun altro. Questo campionato in tanti giocheranno per andare agli europei, perché c'è spazio lì davanti, no? Eh sì. Guarda, io concordo su tutto e torniamo al discorso di prima. E Destro ha avuto, come diceva giustamente, un anno un infortunio e il secondo anno trovi Totti sulla tua strada. Allora, Totti e Destro, per il discorso che facevo prima, non possono giocare insieme, perché sono Destro è uno che sta là nei 16 metri, nei 20 metri, ti punisce alla prima occasione, però non ti dà mai una mano dietro, per cui se tu hai già Totti, avere due giocatori che non tornano diventa una fatica. Però Destro, in una squadra che invece gioca un po' per lui, si appoggia su di lui, non gli chiede questi continui ritorni. Se poi andiamo a vedere lo score, anche nella Roma lui ha fatto un gol ogni due partite, che insomma non certo, è che sia, ma certo. È curiosa la parabola, no, di questo giocatore, è curiosa perché è uno che lo metti, segna, però da titolare non gioca da tre anni. No, poi sai che per tutto si diceva sì, vabbè, ma Totti Destro segna sempre con le piccole, e sì, poi è andato via Destro e la Roma con le piccole ha fatto più gol. Allora forse avere uno che fa gol con le piccole non è comunque proprio una cosa. Sì. Comunque, chi ha consigliato, se c'è qualcuno che ha consigliato a Destro di accettare Bologna e questa sfida, secondo me ha fatto benissimo e andrebbe mandato a Liverpool a consigliare Giovanni, a Balotelli, bravo. Che io, è quell'altro che noi aspettiamo prima dell'Europeo. Sì, io vorrei facciamo davvero questa vederlo battaglia, in campo. Direttore, sì, ma deve essere lui in testa a capire che si può fare come Destro, si può passare da Roma e Milan al Bologna e magari fra un anno incassare i dividendi di questa scelta. Verissimo. Senti, direttore, un'ultima cosa: Goal Line Technology, litigheremo un po' di meno? Ma io ho visto a volte discutere anche sul goal line. Beh, certo. Ma guarda, per me comunque non è gol. No, per me tante volte anche alla moviola, no? Cioè, fatta la moviola, visto 100 volte, poi uno rimane di un'idea e uno rimane di un'altra. Perché credo che continueremo a discutere. Poi comunque i gol tra virgolette fantasma sono il 3% dei motivi di discussione. Le discussioni sono sul fuorigioco, attivo, passivo, in linea, un braccio, una mano, un tuffo di capelli, su tutte queste cose. Noi abbiamo discusso sulla proiezione della linea del fuorigioco. Se ci tolgono quello, no, noi il calcio ci piace dopo che è finita la partita, ci piace il dopo, ma è chiaro. Ma posso dirti una cosa? C'è stato Lazio Bayer Leverkusen, c'è un giornale tra l'altro di Roma che ha considerato inspiegabile l'annullamento del gol del Bayer Leverkusen, quindi che non è il Corriere dello Sport, quindi ce ne restano due, diciamo. Fondamentalmente fatevi la ricerca e lo trovate, no, per dire che si riesce anche a interpretare in maniera non univoca un'azione come quella, che più o meno era chiara per quanto chiamata al limite. L'altro discorso invece un po' più serio è questo: quest'anno ci sono tanti club che si giocano davvero tutto dal punto di vista economico. Io sono sincero, mi aspetto un campionato bastardissimo da questo punto di vista, cioè io mi aspetto che davvero il livello di tensione, di attenzione sulla questione arbitrale sia alto sin dalla prima giornata. Io non so se sia un bene o no, ma credo che avremo davanti dei mesi abbastanza movimentati. Hai ragione, perché il Milan ha puntato tutto sul ritorno in Champions, l'Inter ha puntato tutto anticipando sul ritorno in Champions, la Roma ha speso dei soldi perché deve tornare in Champions, il Napoli comunque la stessa cosa, la Juve neanche a dirlo, insomma, la Fiorentina comunque, la Lazio puntano a fare un bel campionato, per cui è verissimo, sarà un campionato dove c'è ancora più equilibrio, sicuramente ci saranno ancora più. Ah, ma noi siamo qui per questo. Siamo qui per questo, direttore, se no mica ci divertiamo. Grazie, facciamo, direttore. Facciamo finta di essere contro le polemiche. Ciao, Alessandro Lucadelli. Grazie davvero, direttore Corriere dello Sport. Adesso tocca a voi, potete chiedere a Giovanni Capuano anche consigli per gli acquisti, ve lo ricordo, sul fantacalcio, di cui poi parleremo, perché massimo esperto italiano. Ma Alfonso da Ravenna, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, io ho due o tre cose riguardanti l'inizio del campionato. Adesso non c'è più il direttore del Corriere dello Sport che ascolterà comunque, presumo. Sì. Allora, una domanda è quanto influirà psicologicamente il risultato dello scontro diretto Roma-Juve alla seconda, secondo voi, sulle due squadre? Tipo, per intenderci, Juve-Roma di anno scorso del 5-6 ottobre, diciamo, scontretto la gara a partita andata lo scorso campionato. Influirà tantissimo, io credo, soprattutto nella soprattutto sulla Roma. Ecco. E poi vorrei chiedervi, in base sulle due squadre, diciamo, che cosa manca secondo voi in termini di ricostruzione, e se riuscirà a completare la squadra, la Juventus, e in termini di Roma, quanto influisce il fatto che mi sembra di capire che quest'anno alcuni giocatori, mostri, diciamo, della spogliatoia del rosso, vedi De Rossi e Totti, potrebbe essere che non partano titolari. Se questo per voi diventa un vantaggio per la Roma, e io quindi credo un vantaggio per le altre e viceversa. Io credo che sarà molto difficile, Alfonso, lasciare fuori Totti e De Rossi, ma anche perché in realtà De Rossi in questo momento è titolare. Noi stiamo capendo da Roma che la vicenda di Strootman è una vicenda purtroppo lunga e dolorosa, e quindi in realtà De Rossi serve alla Roma. Oggi Garcia ha parlato anche della possibilità di avere giocatori che dalla linea del centrocampo sappiano arretrare sulla linea difensiva. Secondo me ha fatto esattamente il ritratto di come è stato usato ultimamente anche De Rossi, quindi io di De Rossi mi aspetto in realtà che giochi parecchio. Su Totti abbiamo detto prima, io penso che abbia ragione il direttore Vocalelli, ovviamente, cioè l'anno scorso Totti è anche stato usato troppo e lui stesso non era contentissimo. Però questo è il primo anno in cui lui parte non titolare, e anche lì, quando si atterra in un nuovo pianeta, serve che si atterri in maniera morbida, e mi sembra che Garcia oggi abbia messo avanti tutte le mani possibili, no? Sì, questo lungo giro di parole per spiegare che non è vero che Totti è la riserva e Dzeko è titolare. Lo vuoi sentire? Sentiamolo. Sentiamo. Totti e Dzeko possono giocare insieme? Lui dice di sì. Mohamed Salah e Dzeko non sono con noi da tanto tempo e c'è ancora da lavorare, ma l'abbiamo visto contro il Siviglia, sì, ci offre tante possibilità. Anche la possibilità, perché questo lo valuterò e lo lavorerò, di far giocare insieme il capitano e Dzeko. Non è una eresia di pensare questa cosa. Questo giro di parole. Sì, questo è il lungo giro di parole. Rimane il capitano. La domanda era su Dzeko titolare, e quindi c'è questo lungo giro. Ma io credo che Garcia abbia imparato tanto dal punto di vista della comunicazione. L'anno scorso si è scottato con quelle aperture, inizio stagione, la certezza che la Roma avrebbe vinto lo scudetto, anche certi toni polemici con la Juve dopo la partita di Torino, esagerati, che alla fine sono stati controproducenti. Boomerang, mi sembra che quest'anno abbia imparato tanto, ha detto una sacrosanta verità sull'obiettivo della Roma, e credo che su Totti lui per primo sappia che si debbano usare i guanti, ma è evidente che se tu porti a Roma un giocatore importante come Dzeko, qualcosa cambia nelle gerarchie. Gianluca Napoli, buongiorno. Buongiorno, salve. Ben trovato. Dica. Complimenti per la trasmissione. Volevo fare una considerazione. La campagna acquisti del Napoli l'ha reputo ottima fino adesso, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, anche se manca, a mio avviso, il classico mediano di rottura davanti alla difesa ed un difensore centrale che permettono veramente di fare quel salto di qualità al Napoli che da diverso tempo attendiamo. Vorrei sapere la vostra opinione in merito. Sì, mediano di rottura non necessario, l'ha già preso. È Allan, semplicemente Sarri gioca col regista davanti alla difesa, però con Valdifiori. Ecco, c'è Valdifiori e guardate che avere un regista davanti alla difesa, in realtà, se poi questo regista detta i tempi, io credo che aiuti comunque a rendere più razionale anche la fase difensiva. Certo. L'anno scorso spesso il Napoli usciva in maniera verticale, perdeva palle, incassava il contropiede, la ripartenza, era una squadra spaccata in due, Giovanni, giocava con la difesa esposta ai 4-20 e 5 giocatori nell'altra metà campo. Quindi, su Allan andatevi a guardare le statistiche. Quando parlate di mediano di rottura in Serie A, voi parlate di Allan. Quindi quello c'è già. Sul difensore centrale invece si può essere anche d'accordo, perché quella difesa potrebbe essere da completare. Poi io vi ho sentito ieri con il presidente Cairo, però se Maximovic deve andare via a 20 e passa milioni, io credo che si possa anche aspettare. Anche se è vero che in questo mercato i difensori centrali costano tanto, no, troppo. Poi, guarda Otamendi ieri al Manchester City, una follia, dai. Insomma, è tanto. Devo dirti che Otamendi al Manchester City rivaluta alcuni investimenti. Mi viene in mente ad esempio l'Inter, che paga il titolare della nazionale brasiliana Miranda intorno ai 14 milioni complessivamente. E a proposito di difensori centrali, in Francia si stanno chiedendo che cosa è successo a Thiago Silva e David Luiz, perché in silenzio, noi non ce ne siamo accorti, stanno prendendo il posto nella Seleção. Sì. Questi su David Luiz, grandi dubbi non ne avevo. Cioè, il difensore più pagato della storia del calcio, quella è stata la follia. Sì, però quello che in realtà al momento è fuori è Thiago Silva. Sì, ma Thiago Silva, che sta attraversando un periodo di crisi. Magari torna al Milan. 800 24 00 24. Vi aspettiamo subito dopo la borsa. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo! Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. E siamo qui a fare le carte al campionato e anche a dispensare consigli per il fantacalcio con Giovanni Capuano, eh? Mi raccomando, se avete qualche dubbio sul vostro fantamercato, noi vi leviamo questi dubbi, queste perplessità. A proposito di mercato, quello vero, ma secondo te, Giovanni, Cuadrado alla Juventus cosa c'entra? Ma Cuadrado alla Juventus mi pare che sia il paradigma di un po' di confusione che c'è. Sì. Cioè, Allegri sta chiedendo da gennaio un trequartista. La Juve è stata meravigliosa, bravissima. Ha scelto che era arrivato il momento di cambiare ciclo. Sapeva che partivano Tevez e Pirlo. Si è scelta per tempo Mandžukić, Khedira, Dybala. Dybala quanto costa? 40 milioni e sono andati in un sospiro e l'hanno comprato. Subito. Poi sul trequartista si è un po' incartata. Io ad esempio da settimane dico che se tu offri a una squadra la metà di quello che ti chiede per Draxler, è possibile che Draxler non arrivi, o che se arrivi arrivi soltanto in extremis, a condizioni particolari. Quindi io non ho capito se tutta la Juventus è convinta della necessità di avere un trequartista di un certo livello per fare il 4-3-1-2, oppure se ci sono dei piani diversi. Perché non posso credere che la Juve resti incartata in una trattativa con lo Schalke. No, certamente. Non leggiamo anche altri nomi, ogni giorno ne spunta uno, gli Arramendi e l'Armeno, come l'abbiamo chiamato ieri, Mkhitaryan del Borussia Dortmund, che però pare non si voglia muovere. Però è curioso. Beh, appunto, questo fatto lui, che la Juventus non riesca a prendere a gennaio un non giocava nel Borussia, poteva essere preso in maniera più semplice. Oggi nel Borussia gioca e segna, ha fatto tantissimi gol, ha segnato anche ieri il gol decisivo nel preliminare dell'Europa League, e diventa tutto un po' da 0-3 a 4-3, un po' più complesso. Poi c'è Cuadrado sarebbe il profilo perfetto per tutti gli altri. Cioè, mi viene in mente l'Inter che sta impazzendo per prendere Perisic. Ma c'è un problema. Cuadrado sarebbe perfetto. Il problema è che c'è solo la Juve che ha tenuto libero almeno uno slot per un giocatore extracomunitario, e quindi in realtà gli altri, quelli che avrebbero con Cuadrado certamente l'uomo che gli serve per chiudere il progetto tattico, non lo possono prendere. La Juve, secondo me, magari all'ultimo secondo lo costa, se lo fa, perché tanto meglio avere Cuadrado che non averlo, però non è, credo, quella la soluzione del problema. Tanto sto leggendo che domani Galliani e Ferrero vanno a ballare insieme a Forte dei Marmi, non so se a ballare, a cenare, a pranzare, comunque si incontrano, e il Milan sta per mettere mani su Soriano, e questa mi sembra una grande idea del Milan, perché quel centrocampo comunque è da completare, da rimpolpare, Possiamo esprimere qualche perplessità? Sì. Nel senso che io ho due tipi di perplessità. La prima, Soriano mi sembra un giocatore comunque abbastanza simile come profilo a Bertolacci. E la seconda è che se dopo aver fatto grandi investimenti tu prendi il miglior giocatore del Genoa, il miglior giocatore della Samp a metà campo, dove avevi dei grossi problemi, dovevi investire, io non so se tu hai fatto un salto di qualità in termini assoluti. No, non l'ha fatto il Milan. Comincia stasera invece anche la Liga Spagnola, e allora non ci può essere che Filippo Maria Ricci. Ciao Phil. Buongiorno. Ciao, come stai? Bene. Sei pronto? Bene. Sei pronto al via? Prontissima, la decima, la mia decima Liga. È la tua decima? Sì, la decima. Però... come passa il tempo? Mi ricordo quando parlavamo attento, dall'Inghilterra. Stai attento che se ti va come Ancelotti dopo la decima, c'è l'esonero. Intanto lui l'ha conquistata la decima, quindi quello lì fino lì ci siamo. Poi dopo è stato il dopo del post decima, non è stata la decima, anzi, no? Sì, è stato il post. Senti, ma toglimi una curiosità: quanto sono felici a Valencia dopo che sono stati ricoperti d'oro dai soliti sheikh inglesi? Gli inglesi sono spettacolari, Otamendi 45 milioni, ma siamo impazziti. No, ieri mi sono dimenticato di dire a Cairo che è stato nostro ospite, che a quel punto Darmian poteva pure venderlo a un 25-30. Sì, l'ha svenduto Darmian. No, Otamendi, voglio dire, ottimo difensore, fatto un grandissimo campionato qui, però dopo anni in cui ci provava a fare un grande campionato, e insomma, più o meno, io l'ho visto in Coppa America, è stato, diciamo, decisivo, importante, però sì, insomma, 45 milioni, vabbè, ma è tutto così, insomma, però ormai non mi stupisco più di questi prezzi. Sterling quanto l'hanno pagato? 68, sì. 70. Quindi, va bene, anche lui, sì, una freccia, benissimo, però, cioè, non lo so, mi sembra che sia tutto ormai... Non bisogna quasi più parlare di questi prezzi. Pensa Filippo che due mesi fa oggi il Manchester City era ancora sotto sanzione UEFA. Sì, due mesi fa oggi ha speso 140 esatto. milioni di euro e non è ancora finito. E ha questa offerta per De Bruyne da 70-80 milioni di euro. Oggi la Bild scriveva 20 milioni di stipendio a lui, a De Comunque, Bruyne. Parliamo di De Bruyne, perché il Chelsea cos'è, l'ha regalato al Wolfsburg, quanto gliel'ha venduto? Era un giocatore del Chelsea, quando due anni fa, non 10 anni fa, 2 anni fa era un giocatore del Chelsea, quando loro prendono Willian, overbooking, troppa gente, via, scaricato. Adesso lo vogliono ricomprare altri inglesi per 80 milioni. Però sì, per play finanziario è una vera, è una barzelletta. Dai. Una buffonata, dai. Ma sì, vale quando vale quando ti conviene, allora magari devi giustificare, non possiamo spendere, deve fare play finanziario, eccetera. Poi chi ha il grano comunque lo spende. Ma l'Inghilterra comunque sta diventando una specie di discount per i giocatori. Prima parlavamo di Cuadrado, se lo sono voluti prendere a tutti i costi, non l'hanno fatto giocare, adesso praticamente lo prestano a titolo gratuito. È quello che è stato spesso il Reale. Filipe Luis lo stesso, Salah lo stesso, vuol dire, tu spendi e poi non ti sei, come questo è un po' un spendaccioni capricciosi, no? Si innamorano di qualcosa, lo comprano, poi in realtà non ci serve tanto o non lo sanno utilizzare, perché poi c'è anche questo secondo aspetto, e via, si spende, si regala, e così, insomma, si presta, e, come no, un armadio eccessivamente pieno, e allora si fa della beneficenza. Sì, belle signorine capricciose le inglesi. Sì, così, insomma, e poi comprano, anche perché poi comprano chiunque a prezzi esagerati, poi dici... Ah, ma di che la nazionale non va? Di che non ci sono più inglesi? Oh. Cioè, non, è incredibile. Se tu guardi nei ruoli chiave, non c'hanno più un giocatore, insomma, le grandi squadre. Però loro continuano a comprare, fanno un'altra storia. Ormai è la Liga, no, più vista nel mondo, si riempiono la bocca con sta storia, però poi. In Europa è andata come è andata ultimamente, e in nazionale non ne parliamo. Ma lo sai, Filippo, che in realtà sono gli spagnoli che dicono di essere la Liga più vista al mondo? Io oggi sono rimasto particolarmente incuriosito da questa storia, che soltanto in Mongolia e in Groenlandia non hanno comprato i diritti della Liga. Ma perché non li hanno presi? È la prima pagina di AS. Perché non li hanno presi? Ma io non so se è vero, però non mi sono peritato di verificare. Guarda, è l'intervista al loro Maurizio Beretta, al loro presidente di Lega, quindi la diamo per buona, no? Che è uno che la spara. Beh, insomma sì, gli piace raccontare, no, ma poi magari è anche vero, insomma, la prima cosa, insomma, mi chiedo come mai la Groenlandia e la Mongolia, la Mongolia è una... appunto, bisogna fare, esatto, qualcosa, Filippo. Secondo me, esatto, c'è un problema. E non hanno venduto benissimo. E poi comunque sì, loro dicono, sai, un conto è vendere i diritti, poi bisogna vedere chi la guarda, però, perché adesso mi sembra che anche l'Italia sia arrivata a 200 paesi diciamo di diritti venduti all'estero. Poi bisogna vedere, alla fine molte partite sono allo stesso orario, bisogna vedere se il mongolo o l'asiatico di turno cosa si mette a guardare, groenlandese. Sì, poi soprattutto come raccontano quelli che vendono i diritti della Serie A in giro, tutte le volte che viene messa la Serie A in contemporanea col Barcellona o Real Madrid, l'asiatico guarda il Barcellona o Real Madrid, anzi trasmette, non guarda, trasmette. Sì, sì, sì, sì. Ma sì, insomma, voglio dire, è così, non, qua c'è un altro, alla fine un altro appeal, anche qui si spende tanto, siamo arrivati quasi a 500 milioni se non sbaglio, che è il record pre-crisi, e, però mi sembra che si spenda forse con maggior criterio, salvo alcuni casi strani, no? Real Madrid ha speso, siamo arrivati quasi a 90 milioni per dei panchinari, quindi sì, insomma, sì, ecco, sì, questo, non c'è un titolare tra gli acquisti, però in generale sembra che si spenda un pochino meglio, in maniera un pochino più mirata. E ultimamente si vedono i risultati, insomma, no? Sempre in prima pagina su AS, nel ranking UEFA la Spagna ha 20.000 punti più del secondo, per dire, insomma, quindi chiaro, in Europa vincono solo loro ultimamente, sono due anni che fanno 6 su 6 dei trofei, per cui poi vediamo quest'anno se cambia il vento, no? È che sarete d'accordo con me sul fatto che l'uomo ago della bilancia è quello che siede sulla panchina del Real Madrid, Rafa, sì, Benitez è la bilancia forte, grande ago, grande non dirla a Mourinho, non dirla a Mourinho, no, neanche a lui povero, neanche, no, lui. Ma adesso si scherza, no, sì, guarda, io parte la Liga, io prima mi sono esposto dando come favorito l'Atletico, che i bookmaker pagano a 18, quindi adesso andrò a mettere 10 euro su questo Atletico Madrid. Perché vedo, appunto, il Real Madrid è un'incognita, perché il problema tattico è rimasto, non hanno comprato in tutto questo, che no, grande 90 milioni spesi, non hanno preso un centrocampista difensivo, per cui il problema che aveva Carlo Ancelotti l'anno scorso sì, e rimane, e lì l'equilibrio è tutto da trovare. E per cui secondo me, e in più bisogna vedere come reagisce lo spogliatoio al cambio di allenatore, da una persona, sono persone molto diverse, no? Sì. Ancelotti e Benitez, se vediamo. Sì, hanno anche un curriculum diverso. Sì, insomma, è diversa maniera di gestire questa rosa piena di, no, di prime donne capricciose, vediamo come va a finire. Il Barcellona ha una rosa incredibilmente corta, è chiaro, i tre attaccanti faranno più o meno tra i 90 e i 100 gol. Sì. Però se poco a poco gli viene il raffreddore o gli orecchioni, no? Perché a Neymar sono venuti gli orecchioni, e con gli orecchioni non c'è nessuno in panchina. Sì, è venuto anche Pedro, quindi si è accorciato ulteriormente. Il progetto di Luis Enrique, se arrivare al 31 dicembre attaccato al Real Madrid, sì, ma non dovrebbe aver problemi a passare oltre. E poi però arriva Alex Vidal. Arriva, sì, Arda Turan, magari a gennaio compreranno qualcos'altro. Sì, però guarda che Arda Turan, io voglio proprio vederlo nel Barcellona, perché Arda è un giocatore particolare, cioè anche a livello di carattere, cioè, Simeone è un conto, Luis Enrique è un altro, Simeone ha tirato fuori il meglio non solo da Arda Turan, da mille altri giocatori, quello è il grande pregio del Ciolo. Arda era uno irregolare, tipo particolare, vediamo dove si inserisce, anche lì uno spogliatoio molto, molto particolare, tra l'altro spogliatoio senza più Xavi, che era un grande ambasciatore, uno che sapeva, cioè la frattura tra Luis Enrique e Messi l'ha ricucita lui, certo. Adesso non c'è più, aspettiamo la prossima, esatto, aspettiamola, perché ecco quello è un altro punto importante, aspettiamo la prossima. E vediamo come, per cui non lo so, l'Atletico è una squadra equilibrata, un bellissimo attacco, e vediamo come va a finire. Prendiamo il consiglio, andiamo a metterci 10 euro. A 18 18 è una quota spettacolare, sì, no? 18, a 18 Atletico Madrid ce lo prendiamo. Grazie Filippo. A voi, ciao ciao, ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ce lo giochiamo? Ma sì, si può giocare. Potremmo fare giocate in controtendenza un po' ovunque. Quindi l'Atletico Madrid in Spagna, non so chi in Germania, perché mi sembra obiettivamente difficile trovare qualcuno. Non c'è un'alternativa al Bayern. Che non sia il Bayern di Monaco, anche se il Borussia Dortmund quest'anno ha ricominciato a correre come tradizione. E potremmo scegliere in Italia il Napoli. Il Napoli verrà quotato intorno ai 15. Ce lo prendiamo. Prendiamo. Traffico, poi c'è Fabio da Treviso. 800 24 00 24, il numero verde. Applausi per lui, pubblicità per noi. Tutti convocati. Tutti convocati. Giovanni Capuano qui con me, Fabio da Treviso al telefono. Tra poco parliamo, per la vostra gioia, in maniera approfondita, di anche di fantacalcio. Fabio, buongiorno. Ha parlato Mourinho. Buongiorno. Ha parlato Mourinho, ha parlato di Pogba. Sai che oggi i giornali inglesi dicevano sì. C'è l'offerta da 80 milioni di euro per Pogba. Ha detto: io non parlo di giocatori di altre squadre. Allegri lo ha fatto per tutta l'estate con Oscar e Ramirez, ma solo lui può. Mica male. Fabio? Buongiorno. Dica. Volevo un'opinione da voi tecnici. Ciò che non comprendo del mercato dell'Inter, e non solo di quello di quest'anno, ma evidentemente dall'era post-Cambiasso, è come continuino a pensare di acquistare esterni offensivi, laterali, di destra e di sinistra, interni di centrocampo, e non abbiano mai pensato, tecnico come Mancini e direttore sportivo come Ausilio, alla necessità dell'individuazione di un regista, che è l'unico all'interno di una squadra che può variare le diverse possibilità di gioco. Insomma. Si vede che non, all'Inter non, nel progetto di Mancini non serve. Si vede che serve, ma siccome abbiamo detto all'inizio, c'è questa sensazione di precarietà, ma non solo nell'Inter, cioè di progetti non ancora completati, all'Inter serve sicuramente un attaccante esterno, quello che serve anche un terzino sinistro, perché domenica sera l'Inter dovrebbe giocare con Juan Jesus terzino sinistro, e tu capisci che non è un giocatore nel suo ruolo. E poi servirebbe anche quel regista di cui tu parli, posto che l'Inter quest'estate ha smesso di prendere gol nel momento in cui è entrato Medel davanti alla difesa. Ha anche smesso di proporre del gioco, però è stato l'unico modo per tenere in piedi la fase difensiva. Sì. E allora la domanda è: può l'Inter giocare con un regista classico, ammesso che trovi da qualche parte un regista classico a 9 giorni dalla fine del mercato? Un altro mistero buffo è questa lunghissima rincorsa a Felipe Melo, che sì, non, però non mi sembra tu, esattamente. Quando tu sei Pirlo, obbligato dai risultati delle ultime stagioni a cambiare 8, 9, 10 giocatori in un'estate, non è semplice, non è soltanto il problema dell'Inter, vale ad esempio anche per il Milan, che ha investito, ha preso tanti giocatori, poi tu guardi la rosa e ti rendi conto che a metà campo manca qualcosa, che in difesa manca qualcosa, cioè ci sarebbe bisogno di un'altra estate per completare tutto il progetto, e probabilmente questo è il destino che resterà anche all'Inter, con la differenza che l'Inter quest'anno deve in qualche modo raccogliere subito almeno quel piazzamento al terzo posto, e quindi io credo che fra le due o tre priorità che dovrebbe avere Mancini oggi, probabilmente riuscirà a soddisfarne una, magari due, però non si riuscirà a vedere un progetto interamente completo. Sembra che si stia avvicinando Perisic, altra lunghissima storia di mercato, ma d'altra parte l'Inter deve chiudere questo mercato puntando sui prestiti. Sì, non ha più spazio per fare altre operazioni pagandole subito, non stiamo qui ad annoiare la gente. Diciamo che la cessione di Kovacic ha risolto tante questioni di bilancio, soprattutto proiettandosi sul 2016, che parlavamo prima del fair play finanziario, è il primo vero step dell'accordo, della sanzione, dell'accordo, del patteggiamento tra l'Inter e la UEFA. Cioè l'Inter al 2016 dovrà chiudere a meno 30, e diciamo che avendo fatto una plusvalenza da una trentina di milioni non è poi così lontana dal poter raggiungere quell'obiettivo, ma ciò non toglie che fra le tante pieghe di quell'accordo ci sia anche dei vincoli che portano l'Inter a non poter più fare investimenti che vanno a pesare su questo bilancio. Questa è la cruda verità ed è il motivo per cui l'Inter avrebbe anche potuto chiudere Perisic in 5 minuti, ma in questo momento non riesce, è ferma. Vediamo se Toir davvero avrà voglia di fare un extra budget, di metterci lui poi coprendo i soldi, io non lo so questo, però è evidente qual è oggi la difficoltà dell'Inter dal punto di vista dei soldi. E dall'altra parte, ieri alla presentazione Jovetic ha fatto il verso a Mancini, cioè puntare al terzo posto sì, ma bisogna comprare altri giocatori perché siamo una squadra incompleta. Daniele Napoli, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Visto che comunque dei consigli del fantacalcio, perché il fantacalcio sono necessari, insomma, visto che siamo alle porte, in particolare qualche giovane tra Bernardeschi e Belotti come vedete come acquisti, e poi Gervinho è un'incognita, che fine farà? Gervinho va via. Gervinho secondo me o va via o se ce l'hai ti conviene venderlo. Tra Bernardeschi e Belotti io prenderei Bernardeschi, ma sono tutti e due buoni colpi, perché finalmente Belotti giocherà titolare. Esatto. L'anno scorso è stato esodato in panca per colpa di Dybala, che per carità ha reso quello che ha reso, però quest'anno al Toro Belotti gioca, e io magari qualche credito, non euro, qualche credito lo metterei su uno dei due attaccanti del Frosinone, che sono tutti da doppia cifra in Serie B, e la storia del fantacalcio dice che molto spesso questi giocatori anche in Serie A si ripetono, quindi segnatevi Ciofani e Dionisi, ne scegliete uno e ci provate. Cioè, guarda, c'è Marco Guidi, il signor fantacalcio della Gazzetta dello Sport. Ciao Marco. Ciao, ciao ragazzi, ciao gli amici a casa. Senti, pressione, pressione su di te, perché fantacalcio è seguito praticamente come il campionato, è un campionato parallelo. Sì, è un figlioccio del campionato, quindi sì, direi di sì. Tra l'altro molti amici si giocano anche soldi tra fantaleghe piuttosto che nei concorsi come quello Gazzetta, perciò insomma è un gioco che coinvolge anche direttamente oltre al tifo. Sì, rovina anche dei matrimoni, rovina anche delle amicizie, perché questa è la verità, no, Giovanni Capuano? Sì, soprattutto nell'asta. Ma anche nella lettura dei ruoli della Gazzetta, io ad esempio mi chiedo chi decide se un giocatore è a centrocampo o in attacco. Dai, di quei giocatori borderline che non capisci, magari iniziano, che giocano leggermente dietro e finiscono a seconda punta e spostano l'equilibrio di una stagione. Giovanni, stai parlando con uno di quelli che decide. Quindi, ma lo sapevo, mentere, ma poi lo puoi sapevo. Dirmene tranquillamente. È dura comunque, te lo dico, è dura anche perché noi le liste le prepariamo in luglio, quando alcune squadre non le hai ancora viste giocare. È vero, c'è la storia del giocatore che qualcosa ci può dire, però ti faccio l'esempio di Menes nella scorsa stagione, un giocatore che ha sempre giocato o sulla tre quarti o come esterno d'attacco, viene inventato falso 9 ad agosto e tu la lista l'hai fatta a luglio però, e quindi Menez non figurava tra gli attaccanti. Quest'anno col trequartista in più come ruolo ci siamo un po' salvati, però i confini sono sempre ma diciamo agli amici che usano il vostro elenco di ruoli e poi magari fanno la fantalega tra gli amici, cioè il trequartista dove lo devono piazzare? Perché io già mi vedo serate di liti attorno a una pizza per dire Menez l'anno scorso era centrocampista, adesso questi della Gazza si sono inventati il trequartista, io lo voglio tenere lì. E invece magari è attaccante, quindi come dobbiamo interpretarlo? Per quelli che vanno col classico portiere, difensore, centrocampista, attaccante. Ma guarda, nella lista Gazzetta ci siamo premurati di inserire anche il secondo ruolo di ogni giocatore che è stato schierato come trequartista. Quindi tu hai fatto l'esempio di Menes è un trequartista barra attaccante, quindi chi vuole giocare ancora col vecchio sistema, col sistema classico e tradizionale, troverà comunque anche l'indicazione del secondo ruolo. Faccio un esempio, Lazovic a Genova è un trequartista con centrocampista come secondo ruolo, Verde a Frosinone è un trequartista con attaccante come secondo ruolo. Mi sembra attaccante come secondo ruolo, vado a memoria. Comunque ogni giocatore che è trequartista ha anche un secondo ruolo, quindi chi vorrà continuare anche con gli amici a fare il proprio fantacalcio seguendo i ruoli tradizionali troverà comunque l'indicazione del ruolo che vuole usare. Senti, quanti giornalisti conosci che giocano al fantacalcio? Tutti. Molti, non tutti però no, molti. Questo sì. Per dire che io ho visto dopo partite in sala stampa con giornalisti che sono lì sul mezzo voto, perché poi c'è il conflitto di interessi, le amicizie, no, ovviamente si scherza, ognuno lo fa le pagelle secondo coscienza. Però guarda, in gazzetta lo facciamo il fantacalcio usando voti di altre testate, non voglio fare pubblicità, ma chiaramente non usiamo i nostri, quindi quando spesso qualche fantallenatore deluso ci dice ma voi fate il fantacalcio, non lo facciamo con i nostri voti, quindi tendenzialmente quindi non c'è conflitto di interessi, insomma. No, anche perché sarebbe dura giocare contro un avversario che dà i voti, anche tra di noi siamo amici, però sai, amici e colleghi, però su questo non si scherza, insomma, su questo non no, si no, scherza. Sul fantacalcio è uno di quegli argomenti su cui non si può scherzare, purtroppo è così. Grazie Marco. buon lavoro, grazie, buon grazie fantacalcio. Grazie. E buon campionato a tutti. E buon campionato a tutti. Sei soddisfatto delle risposte? Soddisfatto. Io ad esempio, Bacca e Luiz Adriano, non puntateci troppo, perché se poi il 31 vi arriva Ibrahimovic, magari avete speso un sacco di soldi, di crediti, e vi trovate fregati, ad esempio. Beh, Ibrahimovic è l'unico colpo che potrebbe spostare davvero e potrebbe cambiare la faccia totalmente al Milan. Perché no, ma anche a quel punto... chi si è comprato Bacca e Luiz Adriano per il fantacalcio. Sì, ma vabbè, a parte parlavamo di Menez, lì il dubbio ce lo toglie Mihajlovic, a parte che ha mal di schiena, sta fuori un mese, non si sa quando torna, ma lo vedrai poco in campo. Credo pochissimo. Credo pochissimo. È chiaro, se arrivasse Ibrahimovic, poi dove li metti Bacca? Ma io credo che uno dei due lo metti in panchina. Questo anche perché Ibra là davanti non giustifica spazio. L'investimento che potrebbe essere fatto, ad esempio, questa sera, perché tanti si troveranno questa sera per essere pronti domani domenica. Attenzione amici, attenzione, Luiz Adriano e Bacca, con moderazione. Romagnoli? Ma Romagnoli non serve, nel senso che per il fantacalcio i difensori centrali o sono forti di testa e ti assicurano quei 4-5 gol a stagione, oppure uno vale l'altro, sinceramente. Quindi Romagnoli può valere un qualunque altro difensore centrale della Serie A. Va bene, allora aggiorniamo la seduta domenica. Aggiorniamo domenica ore 17, dove avremo anche i primi voti del fantacalcio. Se interessano, onestamente. Quelli delle romane, poi vivremo insieme il primo tempo della Juventus Udinese. Ci sentiamo domenica, ragazzi, con Giovanni Capuano, sottoscritto, tutti quanti. 800240024 vale anche domenica. Vi aspettiamo numerosi. Buon campionato a tutti.